So make sure that your posture is the expression of the enlightened mind. Assicuratevi che la vostra postura sia l'espressione della mente illuminata. It doesn't matter what you do with your legs. Non ha importanza quello che fate con le gambe. But there should be energy running up the spine. Dovrebbe esserci un'energia che sale nella colonna vertebrale. Lifting up gently through the top of the head. E solleva il corpo delicatamente dalla sommità del capo. There should be the natural curvature in the spine. Dovrebbe esserci una curva naturale nella spina dorsale. And for those of you who are not used to sitting, your knees have to be below your hips. Per coloro che non sono abituati a sedersi, allora tenete conto che le ginocchia devono essere più basse delle anche. If they are at the same height as your hips or above, it will push the lower back out. Se sono alla stessa altezza delle anche o al di sopra di esse, allora spingeranno indietro la schiena. And you'll get backache. La schiena, la parte bassa della schiena, e avrete un mal di schiena. And everything else is relaxed off this column of energy. Tutto il resto si rilassa lungo questa colonna di energia. The eyes are gently closed. Gli occhi delicatamente chiusi. The jaw relaxed. La mandibola rilassata. Lips together, teeth apart. Le labbra unite e i denti separati. When the face is fully relaxed, there's a feeling of a smile. Quando il viso è pienamente rilassato, allora sorge questa sensazione di un sorriso. If there's a lot of tension in the face, then just screw it up or clamp your jaw and relax. Se c'è una sensazione di tensione nel viso, allora provate a strizzarlo un pochino, oppure chiudete le mandibole e poi rilassatevi. Relax the shoulders. Rilassate le spalle. If there's tension there, just give them a good squeeze and relax. Se c'è un po' di tensione nelle spalle, anche lì stringetele un pochino, poi rilassate. The hands are placed in the lap, palms facing upwards. Le mani sono nel grembo con i palmi verso l'alto. This is usually the most comfortable posture. Questa di solito è la postura più comoda. And finally it can be helpful to take a long breath, hold it for a little while and just let the ribcage fall. Potrebbe essere utile fare un respiro profondo, trattenere il respiro per un po' e poi come far cadere la cassa toracica. So acknowledge this posture. Quindi prendete consapevolezza, riconoscete questa postura. The energized spine. Quindi la spina dorsale energizzata, gently lifted up, e delicatamente sollevata, and everything else relaxed. Tutto il resto è rilassato. If during the sitting tension comes, then relax it. Se durante la seduta sorge della tensione, allora rilassatela. If the body begins to slump with tiredness, lift it up. Se il corpo si incurva a causa della stanchezza, sollevatelo. In the tradition of the Mahasi Sayadaw, we observe the rising and falling of the abdomen. Nella tradizione di Mahasi Sayadaw, noi osserviamo l'addome che si alza e si abbassa. If you're already established at the nostrils, then that's okay as well. Se però siete ben stabilizzati, se siete abituati a osservare il respiro all'altezza delle narici, allora va bene anche quello. There are two benefits of observing the breath at the abdomen in this system. Ci sono due benefici nell'osservare il respiro a livello dell'addome in questo sistema. First of all, it keeps you within the body. Innanzitutto vi mantiene dentro il corpo. And secondly, the rising and falling of the abdomen is mirrored in the rising and falling of the foot in walking meditation. E in secondo luogo, questo alzarsi e abbassarsi dell'addome rispecchia il sollevarsi e l'abbassarsi del piede durante la meditazione camminata. So for the greater part of the day we become aware of impermanence. Quindi per la maggior parte della giornata noi diventiamo consapevoli dell'impermanenza. We also use a noting technique. Usiamo anche una tecnica di etichettatura mentale, nota mentale. And the purpose of this is to help keep the attention steady on the object. E lo scopo di questo è di mantenere l'attenzione stabile sull'oggetto. As the abdomen rises, we use a word like rising. Quando si alza l'addome, usiamo una parola come sorgere o alzarsi. And when it falls, falling. E quando si abbassa, abbassarsi. If there's a long break between the end of the out-breath and the beginning of the in-breath, choose a touch point. Se c'è una lunga pausa tra la fine della espirazione e l'inizio della inspirazione, allora scegliete un punto di contatto. A touch point like your hands, using the word touching. Quindi un punto di contatto come per esempio tra le mani, usate la parola contatto. So let's just gently place our attention on the sensations caused by the breath. Quindi poniamo delicatamente la nostra attenzione sulle sensazioni causate dal respiro. Rising, falling, touching. Alzarsi, abbassarsi, contatto. And if you're at the nostrils, in, in, out, out. E se siete alle narici, dentro, fuori, dentro, dentro, fuori. the mind is wandering, note what it's doing. Se la mente divaga, notate quello che sta facendo. Worrying, worrying, thinking, thinking, dreaming, dreaming. Preoccupazione, preoccupazione, pensare, pensare, sognare, sognare. The first note is to recognize it, the second note is to really acknowledge what the mind is doing. Quindi la prima etichettatura è per riconoscere, e la seconda è veramente capire quello che sta facendo la mente. And then just bring the attention gently back to the breath. Poi riportate delicatamente l'attenzione al respiro. Rising, falling, touching. Alzarsi, abbassarsi, toccare. The mind is wandering, recognize, acknowledge what it's doing, bring that attention gently back to the breath. Se la mente divaga, riconoscete, comprendete quello che sta facendo, poi delicatamente riportate l'attenzione al respiro. If you're already beginning to feel tired or sleepy, lift the spine. Se cominciate a sentirvi stanchi o assonnati, sollevate la spina dorsale. You can open the eyes a little to let the light in. Potete aprire un po' gli occhi per far entrare la luce. And if it gets very heavy, you can stand up and do this meditation. Se la sonnolenza diventa molto forte, potete alzarvi in piedi e fare la meditazione in piedi. Just relaxing the attention on the sensations caused by the breath. Quindi sviluppate questa attenzione sulle sensazioni causate dal respiro. Rising, falling, touching. Alzarsi, abbassarsi e il contatto. the mind is wandering, recognize, acknowledge what it's doing, bring their attention gently back to the breath. Se la mente divaga, riconoscete quello che sta facendo e dolcemente riportate l'attenzione al respiro. Feeling sleepy or tired, lift the spine, open the eyes, stand up. Se vi sentite stanchi o assonnati, allora raddrizzate la spina dorsale, aprite gli occhi o alzatevi. Begin to experience the sensations caused by the breath as neutral and pleasant. Cominciate a fare questa esperienza delle sensazioni causate dal respiro come neutre o piacevoli. And pleasant. Neutre e piacevoli. Stilling the body, calming the heart, silencing the mind. Quindi, stilling the body. Quindi stando in uno stato di quiete del corpo, calmando il cuore, silencing the mind, e facendo tacere, diciamo, la mente. In this way we begin to enjoy the breath, the sensations caused by the breath. In questo modo cominciamo ad apprezzare il respiro, le sensazioni causate dal respiro. Hopefully now you feel slightly more relaxed, more focused. Adesso si spera che vi sentiate leggermente più rilassati e più centrati. See if you can get closer to the breath, to catch the very beginning of the in-breath and follow it through to the very end. Vedete se riuscite ad avvicinarvi il più possibile al respiro e a cogliere l'inizio dell'inspirazione e a seguirlo fino alla fine. The very beginning of the out-breath and follow it through to the very end. Poi l'inizio della espirazione e se riuscite a seguirlo fino alla fine. And if the break before the in-breath starts again is big, give the mind something to do. E se la pausa prima della successiva inspirazione è troppo lunga, date alla mente qualcosa da fare. Touching. Sempre il contatto. If you begin to get tense, then just pull back to enjoying the breath. Se vi sentite tesi, allora ritiratevi e sentite il respiro. Keep going backwards and forwards until you can really see, feel the breath. Continuate ad andare avanti e indietro fino a quando non riuscite proprio a percepire, a sentire il respiro. And the noting should be concurrent with the breath. E questa annotazione, questa etichettatura deve essere simultanea al respiro. Don't say rising and then breathe. This will give you the impression of controlling the breath. Quindi non dite alzarsi e poi respirate, perché questo vi darà l'impressione di controllare il vostro respiro. Rising, falling, touching. Alzarsi, abbassarsi. E contatto. Hopefully now you're more focused, more relaxed. Si spera che adesso siate più centrati, più rilassati. See if you can just now open up and receive whatever comes towards you. Adesso vedete se riuscite ad aprirvi e ricevere qualunque cosa che vi sia vicina. Che viene verso di voi. You may become aware of sounds. Potreste diventare consapevoli dei suoni. We're not interested in the cause of the sound, we're in the process of hearing. non ci interessa la fonte del suono, ma il processo dell'udire. So when we hear the birds singing, we're interested in that perception, the process of perceiving the bird singing. Quindi quando sentiamo l'uccello che canta, a noi interessa la percezione cioè il processo della percezione nell'udire l'uccello che canta. If there's a sensation in the body, pleasant or unpleasant. Se c'è una sensazione nel corpo, piacevole o spiacevole. Go to it, feel it, experience it fully. Andate verso di essa, sentitela e fatene piena esperienza. Don't try and do anything about it. Non cercate di farne qualcosa. If there is an emotional or mood arising in the body. Se c'è un'emozione o uno stato d'animo che sorge nel corpo. Observe it, feel it, experience it fully. Osservatelo, fatene esperienza pienamente. Don't do anything. Non fate nulla. Don't try and change anything. Non provate a cambiare nulla. And if the mind wanders or there's an image in the mind, just note it and return to the breath. E se la mente divaga o se c'è un'immagine nella mente, semplicemente notatela e tornate al respiro. Always begin with the breath. Cominciate sempre con il respiro. This is our anchor, our reference point. È la nostra ancora, il nostro punto di riferimento. Rising, falling, touching. Alzarsi, abbassarsi e il contatto. Can you see how everything you're experiencing is arising and passing away? Riuscite a vedere com'è qualunque cosa che state sperimentando sorge e passa. Is in a process of change. Ed è in un processo di cambiamento. And you become aware of any reactions in the mind. Riuscite a diventare consapevoli di reazioni nella mente. How when something pleasant arises, the mind goes towards it, wants to indulge it, enjoy it. Quando sorge qualcosa di piacevole, la mente gli va incontro, vuole goderne, vuole indulgere in esso. Or when something is unpleasant, the mind pushes it away, doesn't want to look at it, doesn't want to feel it. Quando sorge qualcosa di spiacevole, la mente la spinge via, non la vuole vedere, non vuole sentirla. you see how when you're in this mode, everything is happening of itself. Riuscite a vedere come quando siete in questa modalità, tutto capita per proprio conto. Sensations arise from the body, whether we want them to or not. Le sensazioni sorgono dal corpo, che noi lo vogliamo o no. Emotions, moods arise, whether we want them or not. Le emozioni, gli stati d'animo sorgono, che noi lo vogliamo o no. The mind offers us thoughts and images, whether we want it to or not. La mente ci offre pensieri o immagini, che noi lo vogliamo o no. You can also sense being the observer, the feeler, the one who experiences. Potete avere anche la sensazione di essere l'osservatore o colui che fa esperienza, colui che sente o colei che sente. That there's a sort of distance, a separation between the observer, the feeler, the experiencer, and what is being observed, felt, and experienced. Come se ci fosse una sorta di distanza, una separazione tra l'osservatore o colui, colei che sente o che esperisce e ciò che viene osservato, sentito, esperito. This is beginning to understand the teaching of not self. Questo è un iniziare a comprendere gli insegnamenti del non sé. Putting aside all instruction. Mettendo da parte tutte le istruzioni. Just sit back and watch the show. E rilassatevi, osservate lo spettacolo. Observe, feel, experience. Osservate, sentite, esperite. Whatever draws your attention within the field of awareness. Qualunque cosa che attiri la vostra attenzione all'interno del campo dell'esperienza. Of awareness. Scusate, il campo della consapevolezza. If you get lost, begin again with the breath. Se vi perdete, ricominciate con il respiro. Rising. Falling, touching. alzarsi, l'abbassarsi e il contatto. When we come to the end of a sitting, it's good to reflect on our experience. Giungiamo al termine di una seduta, è bene riflettere sulla nostra esperienza. How diligent were we at bringing ourselves back to the present moment? Quanto siamo stati diligenti nel riportarci al momento presente? How did we deal with the various physical and mental states that arose? Come abbiamo affrontato tutti gli stati fisici e mentali che sono sorti? Were we skillful or unskillful? Siamo stati abili o non abili? Or were we confused? O siamo stati confusi? Which of the three characteristics was most prevalent in this sitting? Quale delle tre caratteristiche è stata prevalente in questa seduta? Was it the impermanence of things? È stata l'impermanenza delle cose? Was it the role of wanting, not wanting? È stato il ruolo del volere o non volere? Or was it that sense of no control, not me? Not mine. O è stato quel senso del non controllo, non io, non mio. And make a resolution for the next sitting. E poi fate un impegno per la prossima seduta, un'aspirazione. So now we're going to do a little walking meditation together around the hall. Adesso facciamo una piccola meditazione camminata tutti insieme intorno alla sala. So just noting all your actions, taking your time, just find yourself a place on the circle. Sto prendendovi il vostro tempo e notando le vostre azioni, trovando un posto, un vostro posto all'interno del cerchio. It's only necessary to push the outer cushions in towards the center. È importante mettere i cuscini all'interno al centro della stanza.